Noi abbiamo, diciamo, intrecciato prima delle storie che ci avevano raccontato alcuni fornitori che riguardavano appunto lo smaltimento dei prodotti nuovi invenduti. Ci hanno parlato di numeri veramente impressionanti e spalmati su un po' tutti i magazzini d'Italia. Dopodiché, facendo le ricerche, ci siamo imbattuti nel lavoro di alcuni colleghi francesi che è andato in onda su un'emittente appunto televisiva dove si sono introdotti nei magazzini con telecamere nascoste. E dimostravano questo flusso di prodotti nuovi che andava direttamente alla pressa. Quindi abbiamo cercato alcuni lavoratori che ci hanno confermato queste storie, abbiamo provato a ricostruire i numeri e anche, diciamo, il quadro legale all'interno del quale questo smaltimento avviene, perché giusto precisarlo, è perfettamente legale fare questa cosa, perché la legge chiaramente non coglie, non cattura questo problema che è figlio di un modello di produzione che 20 anni fa, quando il grosso della normativa è stato scritto, non esisteva evidentemente. Va precisato che non si parla solo di resi o di materiale danneggiato, ma prodotti anche perfettamente funzionanti nuovi. Esattamente, questo è il problema. Diciamo la vita su uno scaffale di Amazon dei prodotti è molto breve mediamente, dipende dalla tipologia del prodotto, dal contratto fatto con il fornitore, però il modello appunto di produzione di Amazon che conta, diciamo, si affida alla spedizione rapidissima, prevede un grosso turnover. Quindi in realtà è molto facile che un prodotto nuovo che magari ha scarse performance di vendita, che diventa tra virgolette obsoleto, semplicemente ne esce una versione più nuova, ma potrebbe tranquillamente ancora essere venduto, viene venduto da altri magazzini e altri negozi, a quel punto può finire alla pressa. La scelta tecnicamente, se il bene non è di proprietà di Amazon, quindi se non è griffato Amazon, viene lasciata al fornitore, ma qui c'è il problema, cioè un sistema di incentivi e disincentivi che porta alla fine il fornitore a scegliere di distruggere. E questa forse è la colpa principale del modello di Amazon. Costa di più la giacenza dello smaltimento? Fino a settembre scorso sì, poi hanno adeguato anche sull'onda, insomma, dell'indignazione a livello internazionale che l'inchiesta francese e un'inchiesta simile fatta in Germania hanno suscitato, hanno adeguato le tariffe portando una sostanziale parità fra la spesa per smaltire e quella per stoccare, però è bene chiarire che il problema sta a monte. Nei contratti di fornitura che Amazon fa firmare appunto alle piccole o medie aziende che lavorano con loro, in realtà poi abbiamo scoperto anche grandi aziende hanno dei problemi, anche se, insomma, non hanno voluto poi esporsi e raccontarlo nell'inchiesta. In questi contratti vengono imposti dei tempi molto molto rapidi e delle penali molto pesanti se si buca una consegna. Quindi quello che si genera è un overstock continuo, cioè se vuoi lavorare con noi ti garantiamo un grande movimento delle tue merci, però tu devi sempre avere una volta e mezzo, 2 volte quello che venderai probabilmente. Questo significa che se sei un piccolo fornitore non hai neanche lo spazio per tenere tutte queste merci e quindi piuttosto che farle andare avanti e indietro, affittare altri magazzini, alla fine ti pieghi e dici ok, distruggete, mi conviene forse. Nella vostra inchiesta è intervenuto, vi ha contattati anche un dirigente di Amazon. Che cosa vi ha detto? Esatto, è responsabile delle public relations. Ci ha trovato lui perché, insomma, l'inchiesta aveva vinto un premio di giornalismo di Mani Tese, infatti l'inchiesta è sul sito di Mani Tese per intero con anche molti contenuti multimediali. Questo dirigente ci ha offerto la sua versione dei fatti in modo molto dettagliato, non ha accettato di incontrarci personalmente né chiaramente di farsi registrare in video e in audio, ci ha rappresentato quella che è la politica apparentemente molto sensibile verso l'ambiente di Amazon. Bisogna ammettere che l'impegno sull'acquisto di veicoli elettrici negli Stati Uniti o di installare pannelli fotovoltaici sul tetto dei magazzini esiste, però non ci hanno saputo, voluto, per meglio dire, comunicare il numero degli oggetti invenduti che vanno a distruzione. Loro parlano genericamente dell'1%, che in effetti è una percentuale molto piccola, ma per un insieme di magazzini che movimenta diverse centinaia di migliaia di oggetti, milioni di oggetti nei periodi di picco come le festività natalizie, il Prime Day, la Prime Week, parliamo comunque anche di 100.000 oggetti. Questo ci hanno confermato i 3 dipendenti che abbiamo incontrato in tre diversi magazzini. Loro dicono di non poter comunicare questi dati per motivi commerciali, insomma di segreto commerciale, però pensiamo che sia rilevante ai fini, insomma, della collettività per l'impatto ambientale che ha questa scelta. Questo sistema è perfettamente legale, una cosa diversa invece è l'essere morale. Esattamente, è una scelta diversa che comporta evidentemente dei costi che Amazon e chi, diciamo, implementa un modello di produzione simile scarica sulla collettività. Ora, ogni consumatore può e deve fare delle riflessioni prima di prendere decisioni di acquisto, però io personalmente non credo che la colpa possa realmente essere del consumatore che sceglie di spendere meno, anche perché ricordiamo che non tutti sono in condizioni, no, di effettivamente andare a comprare in un negozio dove costa di più. È chi detiene il potere di imporre delle regole diverse, di aggiornare delle regole che evidentemente sono arretrate rispetto all'evoluzione tecnologica, che deve far sì che questo costo scaricato sulla collettività, quindi intendo il costo ambientale, il costo in termini di diritti dei lavoratori, perché altri colleghi hanno parlato ampiamente del problema del lavoro all'interno dei magazzini Amazon, dei corrieri, dei fornitori, questo costo debba essere internalizzato, cioè debba rientrare nel prezzo e eventualmente erodere i margini di profitto di Amazon, che come sappiamo sono molto alti.